Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di DJ Telespro. Buon pomeriggio a tutti da GG Telesforo, siete in contatto ancora una volta con il nostro soundcheck, prova del suono numero 94. Mamma mia, abbiamo già realizzato 94 puntate con la nostra prova del suono e allora vorrei ringraziare subito tutti gli appassionati di musica che ogni giorno scrivono bellissime lettere, bellissime mail al nostro indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it, che troverete proprio nella pagina dedicata al soundcheck, il suono della musica, nel sito di Radio 24. E proprio nella nostra pagina è presente anche il podcast, quindi vi potete iscrivere e scaricare e riascoltare con calma le nostre puntate. Naturalmente la musica non è presente nella versione integrale, ci sono soltanto brandelli di musica, questo per motivi legati proprio ai diritti di riproduzione della musica nel podcast. Diamo il via all'appuntamento di oggi, proponendo il sound del nuovo album della veterana del jazz Diane Reeves, un album che io vi raccomando, lo potete trovare anche su iTunes, quindi scaricabile. L'album si intitola Beautiful Life e Diane Reeves, con la sua vocalità tipicamente jazz, in questa occasione affronta un repertorio senz'altro più contemporary R&B, anche per la presenza e la partecipazione in studio di registrazione di alcuni fra i più quotati musicisti della nuova generazione. Infatti, nel brano che vi presento, che ascoltiamo per la prima volta qui alla prova del suono, Diane Reeves incontra il talento esagerato della contrabbassista, polistrumentista, cantante, compositrice Esperanza Spalding, che infatti affida una sua composizione intitolata Wild Rose a Diane Reeves e a questa bellissima produzione per la Concord Records. Diane Reeves e Esperanza Spalding in Wild Rose qui al Sound Check di Radio 24. Questo brano scritto da Esperanza Spalding, che aggiunge in studio di registrazione il suo tocco magico sul basso elettrico e le sue voci, per questo album di Diane Reeves per la Concord Records intitolato Beautiful Life. Restate in contatto con il soundcheck perché arrivano delle novità discografiche assolutamente da non perdere. Soundcheck, il suono della musica. Issues of Life, il brano che abbiamo ascoltato qui al soundcheck di Radio 24, firmato a quattro mani dal batterista, polistrumentista e producer Zach Nager, con la firma per il testo di Gregory Porter. Album intitolato Time to Do Your Thing, che va in giro sotto il nome di Sbonix, e sarà felicissimo Zach Nager, che si ritrova oggi come partecipazione a questo album in 3-4 brani il vincitore del Grammy Award di questo quest'anno per il miglior album jazz vocale, ovvero Liquid Spirit, che ha portato al successo ancora una volta il bravissimo Gregory Porter, che abbiamo incontrato qui al Soundcheck e con il quale ci siamo veramente divertiti in una bellissima intervista realizzata nel bar dell'Auditorium Parco della Musica. Zach Major e Gregory Porter lanciano il testimone a una cantante pianista inglese, si chiama Zara McFarlane, e questa signorina o signora, sinceramente non lo so se è sposata, ma è prodotta da un signore che di musica ne sa moltissimo, ovvero Giles Peterson, già producer e voce famosissima della BBC inglese, ha realizzato programmi radiofonici importantissimi proprio per la divulgazione della musica di qualità in Inghilterra, e poi col tempo si è affermato anche come producer discografico, stimolando non poco il periodo dell'easy jazz in Inghilterra, lavorando con grandissimi artisti, anche artisti americani, ha stimolato in qualche modo anche D'Angelo e Erykah Badu, e oggi intorno a Giles Peterson si organizzano festival jazz, contest di musica elettronica, ma anche raduni meravigliosi con la partecipazione di alcuni fra i più importanti disc jockey contemporanei. Allora, Zara McFarlane, il brano si intitola Move, album nuovissimo targato 2014, che si intitola If You Knew Her, per la produzione di Giles Peterson qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di nuovo in contatto con il Soundcheck di Radio 24, la nostra prova del suono. Nella puntata di ieri abbiamo parlato dell'importanza dei Grammy Awards per gli artisti e i producer discografici e abbiamo annunciato che vincitrice del reparto jazz strumentale è stata la batterista, ormai una veterana, Terry Lynn Carrington. Terry Lynn Carrington ha una storia ormai lunga, ha suonato con tutti, da Wayne Shorter a Herbie Hancock, fino a produrre l'album vincitore del Grammy Award nella passata stagione, quello con protagonista la bassista Esperanza Spalding, anche lei presente in questo appuntamento insieme a Diane Reeves. Terry Lynn Carrington si aggiudica quindi il premio come miglior album di jazz di quest'anno lì ai Grammy Award, e Terry Lynn Carrington ha prodotto, per aggiudicarsi questo album, un tributo a una produzione di Duke Ellington del 1963. Infatti nel 63 Duke Ellington, celebre direttore d'orchestra ma anche eccellente pianista, decise di entrare in studio di registrazione con due fra i migliori musicisti contemporanei di quel periodo, il batterista Max Roach e il contrabbassista Charles Mingus, per realizzare un album intitolato Money Jungle, veramente una pietra miliare del jazz contemporaneo. E Terry Lynn Carrington quindi decide quest'anno, proprio all'inizio del 2013, di ripercorrere il suono e le composizioni di Duke Ellington realizzate nel 63 con una rivisitazione, coinvolgendo in studio due musicisti fra i più quotati in questo momento: il bravissimo contrabbassista Christian McBride e il formidabile giovane pianista Gerald Clayton, già figlio di John Clayton, veterano del contrabbasso anche lui. E con questa formazione e la partecipazione di altri guest realizza il suo tributo a Money Jungle. L'album quest'anno ha vinto, lo ripeto, il trofeo, ovvero il Grammy Award, come miglior album strumentale di jazz. L'album è bellissimo, naturalmente è un album abbastanza complesso in alcuni momenti, ma anche molto piacevole all'ascolto, in vari momenti ipnotici. Il brano che ho scelto per presentare Terry Lynn Carrington e quindi la sua vittoria al Grammy Award è una composizione di Duke Ellington che si intitola Backward Country Boy Blues, con la partecipazione della vocalist Liz Wright, che si lascia andare con una vena assolutamente blues, e poi a un certo punto il brano assume un aspetto molto contemporaneo. Terry Lynn Carrington, vincitrice del Grammy Award quest'anno, miglior album di jazz ai Grammy Awards, qui al Soundcheck di Radio 24. Dopo Money Jungle di Terry Lynn Carrington, vincitrice al Grammy Award miglior album di jazz, chiudiamo proprio con il pianista che partecipa a questa registrazione, Gerald Clayton, che porta a casa anche lui, con il nuovo album intitolato Life Forum, una bella nomination. Beh, un bel premio per un musicista della nuova generazione che sta spingendo l'acceleratore sulla creatività e che ha coinvolto alcuni fra i migliori musicisti della nuova generazione, e fra questi anche due eccellenti vocalist, il giovanissimo Sakel Vasandani e la bravissima Gretchen Parlato, che qui interpretano proprio una composizione di Gerald Clayton, una vera poesia in musica, intitolata When an Angel Shades a Feather, quando un angelo perde una piuma. Un vero capolavoro di composizione, delicatissimo il pianoforte di Gerald Clayton, melodia che ti prende il cuore, e poi queste due bellissime voci a chiudere il soundcheck di Radio 24 quest'oggi. Quindi a tutti voi buon pomeriggio e buona musica da Gigi Telesforo. Restate però in contatto con i programmi di Radio 24. I swear that I'll see it to be alright sometime soon. Soon I'll be there. It's like part of heaven fell to to help you through. Soundcheck. Il suono della musica.